mentre arriva. Attacca il tuo nemico, non deve avere il tempo di reagire. Forza, colpisci e ammazza il tuo nemico. Deve capire che sei il più forte. Porta! Il nemico arriva e non...